Questa è una delle ulteriori iniziative che abbiamo fatto come pool di legali, un pool di legali che esiste da tempo, che ha fatto un legal team per la Palestina, adesso si è costituito un gruppo di giuristi e avvocati per la Palestina e che ha vari compiti. Ovviamente cerchiamo di fronte al disastro, al genocidio, a quello che succede, di non restare inerti con le armi che abbiamo, cioè quelle del diritto, anche se il diritto mai come adesso è bistrattato, calpestato, qualcuno dice già definitivamente cancellato. Allora, questo ricorso cos'è? È un ricorso che facciamo alla Corte Penale Internazionale, quella che già a seguito di un altro ricorso mise mandati di cattura e di arresto verso Netanyahu, Gallant, che quindi riconobbe crimini di guerra, crimini contro l'umanità nelle azioni compiute dal governo israeliano. Ebbene, questo è un passo avanti, siamo in 50 in realtà, non tutti avvocati, abbiamo predisposto un gruppo di avvocati, si è accodato come firmatario anche un altro nucleo di persone, da Tommaso Montanari, della cultura, sindacalisti, via discorrendo, ma diciamo che come avvocati il gruppo dei 15 avvocati che hanno avuto l'impegno di stenderlo è stata l'idea di ampliare, cioè di fronte a un genocidio, che è un crimine contro l'umanità, si dice che tutta l'umanità è interpellata e dovrebbe fare qualcosa, tutta l'umanità è parte lesa. Ma noi abbiamo, a parte questa osservazione, visto che la Convenzione del Genocidio, la Convenzione per la Prevenzione e la Punizione del Genocidio del 9 dicembre 1948 espressamente parla di prevenire e punire il crimine di genocidio. E nelle ordinanze della Corte Internazionale di Giustizia, quando viene ritenuta la plausibilità del genocidio, si ordina agli Stati di attivarsi per impedire il compimento del genocidio. Tutti gli Stati dovevano fare questo, tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione, tra cui l'Italia. Noi crediamo che l'Italia non l'abbia fatto, quindi questa denuncia è contro il governo italiano, contro il governo israeliano si è già proceduto, noi vogliamo ampliare perché a questo punto vogliamo chiamare sul banco degli imputati i complici, i corresponsabili, i governi che non solo non hanno fatto niente ma era loro preciso dovere intervenire per prevenire il genocidio e questo non è stato fatto, almeno dal gennaio 2024 quando c'è l'ordinanza della Corte di Giustizia che pone questo obbligo, ma soprattutto governi che hanno continuato a commerciare, trafficare armi. Due giorni fa un'intervista del direttore di Leonardo, il CEO di Leonardo, Cingolani, ammette che l'Italia, contrariamente a quello che diceva il ministro Tajani, che ha mentito, ha continuato a esportare armi in virtù di contratti stipulati prima del 7 ottobre che non si possono, non si vogliono risolvere. L'Italia ha continuato un'attiva complicità, un supporto al genocidio, non solo è stata inerte, ma è stata corresponsabile, ha sostenuto Israele, quindi chiediamo che venga giudicata dalla Corte Penale Internazionale nella persona dei suoi vertici, quindi Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri, oltre ad altri membri del governo corresponsabili. Questa inadempienza è passibile poi appunto di una condanna? Sì, è l'unica convenzione internazionale che prevede come non solo sia responsabile chi commette la violazione del diritto, ma anche altri stati e autorità che lo consentano, cioè estende la corresponsabilità penale, qui si parla di responsabilità penale, quindi non dello Stato, ma responsabilità di governanti, di singoli membri del governo, che abbiano lasciato che il genocidio si compisse o ancora peggio nel caso dell'Italia, ma anche della Germania, della Gran Bretagna, siamo in ottima e pessima, vorrei dire, compagnia, stati che hanno continuato a fornire strumenti finanziari, economici e anche militari al genocidio che è continuato. Quando presenterete questo ricorso? Il ricorso è già stato completato e finito e abbiamo lanciato a questo punto una campagna pubblica di supporto, cioè le firme ulteriori non saranno ovviamente le firme dei proponenti, sono firme di aderenti a supporto, abbiamo su un sito lanciato un po' artigianalmente, ma questa idea che altri avvocati, giuristi, esperti o semplicemente cittadini che hanno a cuore il rispetto del diritto internazionale possono firmare, che è questo gruppo di avvocate e giuristi per la Palestina. Quindi stiamo raccogliendo firme, abbiamo lanciato poche ore fa, ci sono già 2500 firme di adesione, contiamo che diventino molto di più, lo speriamo. La presentazione tecnica del documento, che ovviamente verrà fatta dai proponenti iniziali, perché hanno responsabilità, identificazione, sono quelli che insomma sono identificati formalmente come ricorrenti e quindi gli avvocati che l'hanno esteso, tra cui io, quest'altro gruppo, vi dicevo, siamo in 50 persone e aggiungo una nota, un importante giurista e professore che era tra i firmatari, ha dovuto ritirarsi perché negli Stati Uniti il provvedimento di Donald Trump prevede che chi collabora con la Corte Penale Internazionale, cioè chi collabora con la giustizia, è passibile di ban, non può più entrare negli Stati Uniti e possono essergli sequestrati i beni. Per spiegare il mondo in cui viviamo, il mondo alla rovescia nel senso vero, questo importante professore ha dovuto ritirare la firma perché se no non poteva più entrare negli Stati Uniti dove insegna, anche se è cittadino italiano. Quindi far valere il diritto è difficile, ma crediamo che il nostro compito di chi vorrà aderire è anche dare un segnale in questa direzione. Noi lo presenteremo questa settimana, il termine che ci avevamo dati era domani, era venerdì, per la presentazione materiale. In realtà c'è la raccolta degli allegati, il testo è finito, tutta la documentazione raccolta dalle organizzazioni internazionali, ONG, Amnesty, gli organi di giustizia, che dovrà essere allegata e che è molto corposa. Comunque parliamo di un atto che domani dovrebbe essere depositato, se tutto va bene.